Dunque, signor Luca Pinna. Sì. Lei mi ha parlato di situazioni strane, vero? Sì, è così. Sente delle voci, a quanto pare. Esatto, dottore. Eccellente. So che lei scrive delle canzoni. Sì, lo faccio. Ed è per questo che mi sono permesso di andare a leggere alcuni dei suoi testi. Ok, va bene. Devo dire che ho trovato delle cose abbastanza ambigue. Lei, signore, manifesta una rabbia inarrestabile. Ho notato che lei ha una visione di vita simile a quella dei poeti maledetti francesi. Sì. Ma il fatto è che, dopo diverse sedute, sono giunto alla conclusione che lei è affetto da una malattia mentale da me ribattezzata decorso di Trenchi. Ovvero, lei ha diversi sbalzi di umore, sì, che si alternano tra depressione ed esagerata euforia, detto anche stato maniacale. Okay. Tecnicamente parlando, lei è affetto da una specie di disturbo bipolare. Oddio. Ora stia calmo e collabori. Facciamo un viaggio nella sua mente, ok? Mi dica tutto.